Rock Wave, l'onda del rock. Buona serata, ben trovati a tutti amici di Blu Radio Veneto, Rock Wave edizione particolare con la voce di Francesco Galante, ma anche con la voce dell'immancabile Maurizio Calzavara. Benvenuto Maurizio. Grazie Francesco, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa sera abbiamo un appuntamento bello, particolare, con un cantautore, Emanuele Bocci. Buonasera a tutti. Allora Emanuele, intanto benvenuto, non sei da solo. Grazie, grazie a voi che mi avete ospitato e ci state ospitando. Sì, non sono solo, qui accanto a me c'è... Presentati dai, fai. Sono il fratello, è la prima cosa che devo dire. Cristiano Bocci. Volevo portare anche la mamma, no, ma spiega perché il fratello. Cioè, sennò... Perché lui ha la fortuna di avere un fratello contrabbassista. Ah, ecco. È una rarità assoluta. Solo per questo siamo ancora in buoni rapporti. No, a proposito, questa è una cosa interessante. Tra fratelli, che solitamente poi maschi non si va granché d'accordo, almeno insomma, nella maggior parte delle volte ci sono sempre dissapori e discordi, e invece la musica vi accomuna, vi lega? Ma sì, penso da sempre forse. Poi, aspetta, dico un'altra cosa. Ora risolviamo le parlasse. Parla. È che io mi preparo, causa contrabbasso, a stare in posizione. Parla, no, vabbè, ma io e Emanuele siamo stati sempre molto legati. Comunque, fin da piccolini abbiamo sempre giocato insieme, diviso un po' tutto. E poi sì, anche questa passione per la musica. Certo. Anche perché c'è solo un anno di differenza, quindi... Ah, proprio... Quasi non potrebbe essere altrimenti. Oggi non si può dare niente per scontato. Quel più però... vecchio dei due, quel più vecchio. Non si dice. Non si dice. Dalla voce dovrebbe essere scoperto. Ecco, comunque dall'accento si capisce di dove siete, ma magari insomma uno vi identifica come regione, ma poi la vostra città qual è? Noi veniamo da Lampedusa. Si sente, insomma. Si sente, no, che siete dei comici. Sì. No, noi siamo toscani, penso, sì, più o meno. No, in realtà, guarda, allora, quando si dice toscano... uno pensa subito a Firenze, Livorno. In realtà noi siamo di Grosseto, e per l'esattezza della provincia di Grosseto io ci tengo sempre a precisare che siamo di origini amiatine, veniamo da un piccolo paese del Monte Amiata che è sempre nella provincia di Grosseto, poi ci siamo trasferiti in città, siamo scesi a valle in Maremma una quindicina d'anni fa e stiamo ancora lì. Lui invece sta, perché faccio parlare... grazie, io abito vicino Siena, in un paesino ancora più piccolo, diciamo nel comune di Monterigioni. Ah, benissimo. E lì, dato che insomma tra poco conosceremo meglio il tuo lavoro, il tuo album e tutte le tue canzoni, con un po' di canzoni dal vivo e qualcosa ovviamente la estrapoleremo dall'album che si intitola Un po' gabbiano, ma avremo modo di approfondire anche tutto in merito a questo lavoro. Lì dalle vostre parti la musica si esprime spesso dal vivo nei localini oppure... c'è grossa difficoltà? Ma guarda, un po', forse un po' come da tutte le parti. Ho scoperto dalle mie parti, lo sto scoprendo anche un po' in giro per tutta quanta l'Italia. Cioè l'Italia continua a essere un paese di provincia, detto tra virgolette, perché è molto più viva la provincia che la grande città. Sì. Nella grande città c'è molta vita, però c'è anche molta dispersione. Invece nei piccoli centri, piccoli paesi... magari c'è un locale solo, c'è un'iniziativa d'estate che però viene molto valorizzata e dà spazio anche alla musica originale, ai cantatori che magari non sono cantatori affermati. Certo, quindi c'è più possibilità. Quindi sì, trovo difficoltà comunque nella zona di Grosseto, insomma tutta quanta la Toscana, però ci sono anche delle belle realtà, insomma un po' come accade in tutta quanta l'Italia. Certo, tu sei cantautore, cantastorie, cantattore, ti definisci nel MySpace. Sì. Come mai, Emanuele? Sì. Ma perché guarda, le canzoni che comunque canto solitamente, che scrivo e che canto solitamente sono proprio delle piccole storie. Cioè mi metto proprio lì ad immaginarmele e anche proprio a immaginarle come se fossero dei piccoli racconti, dei piccoli... Sì, le cante e le reciti praticamente. Film. Sì, e poi dicevo, proprio perché sono storie si prestano anche bene ad essere recitate, quindi ad essere interpretate in un modo un po' particolare, quindi... Sono già diversi anni che mi porto quando faccio i live, poi a seconda dei contesti però dei piccoli elementi anche scenici, per diventare un po' i personaggi che racconto, oppure per ambientare meglio la storia, può essere un cappello, una sveglia, un timone, oppure faccio vestire lui, il mio fratello. Perfetto. tu hai cominciato con le voci del vincolo. Del vicolo. Sì, sì. Che cos'era? Una band? Sì, dove proponevamo comunque anche lì pezzi originali, scritti in parte da me, in parte da altri due autori. E è un po' con loro che ho iniziato questo approccio di cantastorie e poi, come dico io, cantattore. Sempre partendo da queste storie da raccontare attraverso la musica. Poi da 2-3 anni ormai a questa parte, insomma, quell'esperienza è stata messa, diciamo, momentaneamente in stand-by per motivazioni sia artistiche sia personali, umane, insomma, questioni che poi capitano nella vita. E insomma, devo dire la verità, attualmente sono anche molto molto soddisfatto della mia attività da solista, quindi non è che ho dei rimpianti, è stata però un'esperienza importante, insomma. Non hai avuto difficoltà a passare da una band o da un gruppo al solista, praticamente? Inizialmente era un'esigenza, perché nella band eravamo 7, a volte 8. Quindi insomma, un po' troppi forse. Anche difficile a volte proprio da spostarsi, da organizzarsi. Quindi sai, quando passi da una band molto numerosa a situazioni addirittura di duo, a volte mi esibisco da solo, trio... Comunque dove... Beh, stasera sei con tuo fratello, quindi un duo effettivo. E quindi magari c'è stata una semplificazione enorme per quel che riguarda la logistica, ma anche proprio la strutturazione dei brani, gli arrangiamenti, eccetera. Dall'altra parte, inizialmente ci sentivo un po' di povertà di suono, perché abituato comunque al tiro della batteria, la chitarra, fisarmo, eccetera. Insomma, però poi devo dire la verità, ho anche avuto modo di riflettere anche poi da riscontri che ho avuto, insomma, da altre persone, dal pubblico, dagli addetti ai lavori, che tutto sommato le canzoni, così come le concepisco io, si adattano anche molto bene in set minimali, anche abbastanza acustici, perché viene molto più dato il risalto alla parola, al racconto, alla piccola storicità che ci sta dentro, piuttosto che, insomma, alla componente musicale, che rimane sempre importante per me, insomma, sia a livello compositivo che a livello di arrangiamento. Però ridotta ai minimi termini, nell'essenzialità a volte ci può essere un'ottima via di mezzo, insomma. Perfetto, hai spiegato benissimo cosa vuol dire essere cantautore al 100%, vero, ecco, Francesco? Certamente, ma però è giusto anche andare subito a sentire di che cosa stiamo parlando, magari partendo da una traccia del CD. Ricordo un po' gabbiano il titolo dell'album di Emanuele Bocci. La canzone che andiamo a scegliere, ad ascoltare adesso, è Nunca Mais, che è la numero 5, la traccia numero 5. Presi al banco una cerveza, fuori il cielo si ubriacava di nuvole e bufera sulle coste di Galizia. Entrò un pescatore folle, entrò e spalancò le porte. Balbettava che nel mare il gigante degli abissi vomitasse sangue nero. Dal porto una sirena fischiava cantilena tra i denti del vento d'osro est, e un folle ripeteva: allargo una balena ferita diretta a Finisterre. Che non sescia, che non sescia un petroliero, oh, che mate a costa da morte, che nunca mai stinga de negro o azul dos galegos. Quando il sole si riflesse sui brandelli della nave che sputava via il catrame, anche il vento desistette. Ma nel gioco dei potenti ci lasciarono in disparte, tra le tare del governo s'ammalavano le onde, ci attrezzammo nonostante dalle sponde o con le barche a lavar le nostre acque. La macchia si contorse, quell'onda picchiò forte tra i sassi e le sabbie dello Strias, E un folle ripeteva: allargo una balena, ferita diretta a Finisterre. Che non sescia, che non sescia, un petroliero, oh, che mate, a costa da morte, che nunca mai stinga de negro, oh, azul dos galeios, che nunca mai stinga de morte, os mares donos o mundo. L'onda del rock. E allora abbiamo ascoltato questa canzone, Nunca Mais, spero di averlo detto bene, Emanuele, detto giusto? Bene, detto bene. Nunca Mais, che cos'è poi? Nunca Mais in gallego significa mai più. E, è una canzone ispirata al naufragio di una petroliera. La petroliera Prestige è un fatto che risale al novembre del 2002, quindi quasi esattamente 9 anni fa. E in seguito a questi eventi, insomma, piuttosto tragici, perché poi sì, le contaminazioni ambientali che ne conseguirono poi si fanno risentire anche attualmente, chissà per quanti altri anni ancora. E dicevo, in seguito a questi eventi fu creato questo movimento di ispirazione popolare, proprio si chiamava Nunca Mais, come a dire questi fatti non dovrebbero mai più accadere. Poi purtroppo continuano ad accadere in giro, sì, per il mondo. Anche recentemente. Sì, quindi. Però la cosa bella è che sul momento, la cosa che poi mi ha ispirato, io andai addirittura in Galizia 2 anni dopo, ma non per questo motivo. C'era un fatto che io avevo sentito dal telegiornale, ma un fatto che poi c'è, cioè, quelle cose che senti e poi ti passano dall'altra parte delle orecchie. E invece andando da quelle parti per un viaggio, insomma, così, puro turismo, insomma, e venendo a contatto con questa realtà, con questa situazione, e poi da lì ho iniziato a approfondire anche un po' tutto quello che aveva a che fare con queste vicende, ho scoperto che in realtà è stata proprio la popolazione che si è attivata, ha iniziato a pulire le acque, a pulire le coste, e sono stati coinvolti centinaia e centinaia, se non migliaia, insomma, di volontari in giro per tutto il mondo, a partire da un'iniziativa popolare. Insomma, questa cosa mi stupì particolarmente, e poi da lì ho cercato a mio modo di farla diventare una canzone. Come mai ci ha messo il sax con tipo Walter questo pezzo, chiaramente. Come mai? Ma guarda, questo brano ha preso un po' un andamento balcanicheggiano, quindi ci voleva, sì, ci voleva proprio questa situazione di trio, contrabbasso, fisarmonica e sax tenore, che a volte da vivo eseguiamo anche col clarinetto, che è ancora più balcanico. Esatto, molto balcanico, sì. Sì, però è un valzer sì, a tuo modo, alla tua costruzione. A proposito, abbiamo citato chi suona il sax, anche non l'abbiamo citato, ma possiamo citare i musicisti. Sì. Allora, guarda, nel disco il pezzo è suonato da Emanuele Cannatella, che è comunque un sassofonista di Grosseto, un bravo jazzista, molto bravo sia sul sax tenore che sul sax soprano, e qui infatti suona in questo brano suona sax il soprano. Poi il contrabbasso è suonato da lui. A proposito, lui lo presento ancora. Cristiano Boy. Lui è molto. Cioè, mi parlava di jazz sperimentale. Ci ha messo qualche input di jazz sperimentale. Non mi parla su questo disco. Ma guarda, no, su questo disco no. No, sulle limitato. Sulle prossime produzioni. No, dal vivo qualcosa ci mette. Anzi, forse dal vivo faremo qualche cosa di sperimentale. No, forse no. Comunque, no, poi ci tengo pure a dire che al momento suona con me anche un altro sassofonista. Si alternano. Emanuele Cannatella insieme a quest'altro sassofonista che è Francesco Diodato, che lui suona anche clarinetti, quindi per esempio in questo brano proprio fisarmonica e clarinetto è il massimo. E poi ci sono insomma altri musicisti, c'è Riccardo Cavalieri che è stato anche il produttore del disco, che ha suonato con Gino Paoli, tra l'altro suona con Gino Paoli al momento, suonato con Irene Grandi, e poi c'è stato un altro ospite d'eccezione, il tastierista di Ligabue, Giuseppe Fiorilli, che è un grossetano pure lui, quindi siamo riusciti ad incastrarci bene con i tempi, ci abbiamo messo un organo Hammond suonato da lui su un'altra traccia del disco. Poi suonano nel disco comunque anche amici, insomma, delle voci del vicolo, per esempio Paolo Acquaviva, che ha suonato sia il trombone che il bombardino. Poi non mi sembra, poi parecchi strumenti mi è toccato suonarli a me perché ti è toccato un secco di faini, si dice, no, di quattrini, quindi abbiamo dovuto far conto sulle nostre forze, certo. Insomma, e chiaramente tu questo l'hai prodotto totalmente te, e Francesco in economia, possiamo dire, tra virgolette. Sì, guarda, devo dire anche qui la verità, è un'autoproduzione, però grazie al fatto che conosco persone con cui lavoro da tanti anni. Cioè, è come se fosse una sorta di coproduzione, ecco, una produzione esatto. Condivisa insieme a tanti. Ah, anche lo stesso produttore Riccardo, che comunque diciamo mi ha fatto un disco con una spesa insomma abbastanza è importante, c'è poco da fare, Francesco, è importante l'economia per un disco. Beh, se parliamo di economia io sono il primo, assolutamente. No, in ogni caso spesso economizzare non va a discapito della qualità. No, no, infatti. No, l'importante è quello, insomma, perché poi se un conto, ecco, le cose in economia che poi rischiano, non sempre, ma insomma a volte anche di essere un po' tirate via. Conto magari cercare di fare un lavoro, ecco, proprio contare sulle proprie possibilità e farle fruttare al 200%, secondo me vengono fuori delle cose anche di ottimo livello. Insomma, certo, voglio dire, certo. Ora, magari non per questo disco, speriamo anche per le produzioni future, però insomma penso che un po' sia quello, cioè fa veramente conto sulle proprie forze. Infatti io suono in famiglia, perché qui abbiamo Cristiano Bocci. Che è anche sottopagato, no? Perché è il fratello. È in economia, quindi è logico, no? Va bene. Maurizio, che cosa facciamo? Suoniamo qualcosa, dai. Va bene. Suoniamo qualcosa. Allora, che cosa suoniamo? Ma, senti, io farei subito il pezzo che è stato il singolo, il pezzo con cui poi è stato un po' portato avanti la promozione di tutto il disco. Che, ecco, ci tengo sempre a dire questa cosa, è un pezzo che mi ha reso particolarmente popolare nel paese dove sto io, a Marrucheti. Non so se sapete dov'è Marrucheti. Lo sapete? No, dov'è? Marrucheti è il comune campagnatico. Sì. 58042. Niente, vabbè, provincia di Grosseto. No, niente, no, è bella, importante questa cosa perché, ecco, in questo paese siamo circa 40 famiglie e grazie a questo pezzo sono diventato popolare perlomeno su 20 famiglie, almeno 5, quindi ho detto se la storia va così bene a livello nazionale poi rischiamo veramente di sfondare. Se la proporzione resta, sì. La cosa diventa una cosa eccezionale. Vabbè. Comunque, allora, il pezzo si intitola Non ci sono più parcheggi, poi tra l'altro Marrucheti è un paese di provincia, cioè proprio in mezzo alla campagna, problemi di parcheggi non ci sono, ma insomma, vabbè, a parte questo. Allora, il pezzo inizia così. Telefonata. Mi fai una suoneria a voce? Oh, non ce l'ho di meglio, d'altronde. Falla. Pronto? Scusa, potrei sembrarti un po' in ritardo, ma sono in auto e sto vagando, preda solo di miraggi. Non ci sono più parcheggi. Anche il vano motore, spingo e mollo l'acceleratore, sento puzza un po' e la tensione, un po' il bruciato della frizione, me. Via Bolzano, via Messina, via una tacca di benzina, azzo sembra un posto vuoto dietro a quel fiorino, freccia a destra, sterzo, ma c'è parcheggiato un motorino. Pronto, ciao, amore mio, non ti arrabbiare, questo traffico è una croce, più fa sera più è feroce. Scusa, ma sono di nuovo sul viale, sulle tracce di un porcheggio latitante. Sono stanco, mi senti un po' distante. No, è che non c'è capo, amore, no, so qui, no, no, no, non c'è capo, no, non c'è linea. Ti richiamo tra poco, ciao amore, ciao. Via Bolzano, via Messina, via un'altra tacca di benzina. Scusi, se ne sta andando oppure arriva? Vabbè, parcheggerò in seconda fila, almeno scarico la spesa. Surgelati e pesce spada, brontola anche il vano motore. A che invidia quel pedone, senza il tarlo della sosta. E intanto un tipo in bicicletta mi sorpassa in via Messina. Via mi tocca rifar benzina. Tom, mi sembra là c'è un posto sterzo, ma c'è un cassonetto. Ripercorro l'isolato, quasi fossi ipnotizzato. Pronto, ciao, amore mio, non ti arrabbiare. Questo traffico è una croce, più fessore, più è feroce. Scusa, ma amore, vado a litigare. Mi han soffiato sotto il mento un bel posto a pagamento. Ti chiamo tra un secondo. Quel posto l'ho visto prima io. Ma come no? Ti dico, l'ho visto prima. Ma c'ero prima io. Ma vaffanculo. Facci una roba proprio improvvisata. Questa è la dimensione del jazz sperimentale di Cristiano Bocci. Suona con me anche per questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, pronto, ciao. Ti prego amore, non ti arrabbiare. Pensa un po' al mio serbatoio, ai rincari del petrolio. Proviamo a risparmiare almeno un po' sul cellulare. Amore, no, sto qui a 100 metri, non c'è posto per la macchina. Siccome inizio a avere colpi di sonno, Io so che fora quasi quasi mi fermo qua davanti a un passo carrabile. Mi fa la mezz'oretta di sonno e poi riparto, va bene? A tra poco allora, ciao amore, ciao. Via Bozzano, via Messina, via una tacca di benzina. In genere ci sono degli applausi, no, fragorosi, e io dico al contrabbasso sperimentale Cristiano Bocci. Here I am. Bravi, no, sicuramente una cosa simpatica quella che abbiamo ascoltato, che si intitola Non ci sono più parcheggi, e questo noi a Padova possiamo dirlo tranquillamente. E no, tra l'altro posso dire, aggiungere una cosa, sì, una notizia su questo brano, c'è pure un videoclip, certo. Sì, che si può vedere su YouTube, non solo, anche sul mio sito. E il protagonista di questo videoclip è Paolino Ruffini, che è un toscanaccio, sì, di Cornesaccio, tra l'altro la sta lavorando anche in televisione. E all'interno del disco c'è pure un'altra traccia di questa canzone, una versione in cui le parti parlate le fa lui in livornese. Il vernacolo, sì, praticamente. Sì, no, diciamo con cadenza livornese, ah, cioè, insomma, frammenti, quindi il vernacolo sono finezze che poi magari noi veneti non riusciamo proprio ad apprezzare, sì, no, perché è come se tu sentissi parlare un padovano, un trevigiano e un veneziano. Siamo veneti tutti quanti, ma nel giro di 50 km ci sono delle differenze, sì, sostanziali, so, proprio nella parlata. Ma infatti anche a me capita, lo dicevo all'inizio, capita, mi dicono tu sei di Firenze, no. No. Addirittura i fiorentini pisani a noi dicono Maremma, ma sembrate romani. sì. Perché mi dai romani? Vabbè. Allora, torniamo a parlare un attimo di questo album, Maurizio. Sì, esattamente. Nelle recensioni ti hanno paragonato, ti hanno avvicinato al jazz e al, non dico al blues, al jazz, soprattutto allo swing. Questo era un pezzo pervaso di swing, secondo sì, me. Sì. Come mai questo amore per lo swing? Dobbiamo sottolineare che tu suoni un sacco di strumenti. Anche le percussioni africane. Sì, ho studiato per 4-5 anni percussioni. Poi, diciamo, fanno parte sicuramente del mio bagaglio culturale. Però sono strumenti che al momento sto anche suonando un po' parte. Di meno. Sì. Ho ripreso un po' a suonare gli strumenti a tastiera. Ma guarda, in linea di massima mi piace molto tutta la musica. Cioè mi piace proprio suonare veramente di tutto. Ho proprio, io quando ero più giovane ho iniziato a suonare il basso addirittura in una band, faceva thrash metal. Ah, perfetto. Mi piaceva. Durissimi, sì. Però al tempo stesso mi piacevano molto le sonorità acustiche, quindi già chitarra, in parte pianoforte. E non è che io, ecco, abbia una predilezione per un genere piuttosto che per un altro. Ci sono, ecco, queste... Sto fatto, no, dello swing che a volte viene fuori, non so di preciso perché viene fuori, è una roba... Perché una cosa, lo swing è una cosa, sì, probabilmente uno c'ha dentro. Ma insomma, c'è libertà con lo swing, secondo me, infatti, questo è il motivo. Infatti, e poi tra l'altro, ecco, devo dire anche questa cosa, partendo dal discorso che abbiamo fatto prima, no? Che comunque ogni brano ha una sua storia, ogni storia si adatta bene ad un genere musicale. E viceversa, insomma, ogni genere musicale può ispirare poi più o meno un mondo, un'ambientazione... Quindi quando penso a un tipo che non trova il posto per la macchina, insomma, immaginatevi, ecco, di essere dentro Padova e non c'è posto per la macchina e uno vi suona dietro, cioè uno o suona morto oppure magari la prende a ridere e gli dà di swing, insomma. E quindi mi ci sta bene sto rotolamento dello swing, proprio l'ho sentita così, insomma. E questo disco con Pau Gabbiano fa parte di un progetto, di un percorso musicale, teatro canzone, possiamo dirlo così, sì, Emanuele? Sì. Sì, guarda, anche qui per fare così una precisazione, ma per, in realtà la so solo io questa cosa, però precisiamo. È nato prima lo spettacolo del disco. Avevo scritto tutta una serie di brani che ruotavano intorno all'argomento dell'ecologia, della sostenibilità, ma ecologia vista anche in senso molto lato. Sostenibilità, ripeto, raccogliendo questi brani, introducendoli in un certo modo, mettendo per scritto anche le varie parti parlate che via via dal vivo tendevo ad eseguire e diventavano sempre più strutturate, ho scritto questo spettacolo di teatro canzone che si intitola Un clima nuovo e che, ripeto, parte dal clima in senso ecologico, ambientale, e poi parla del clima nel senso più lato del termine, insomma, dal clima nel senso dell'aria che si respira, di tensione, la tensione, il clima di paura, certo. E il rapporto con le banche, con i mutui, queste robe qua, che poi è una cosa, ripeto, scritta 2 anni fa, però continua ad essere anche molto molto molto attuale. La paura del diverso, ci sono 2 brani comunque che parlano dell'immigrazione e dicevo, una volta che, ecco, è stato portato in scena questo spettacolo, eseguito comunque più volte, poi ho sentito anche un po' l'esigenza di fare un disco con queste canzoni che tutto sommato avevano anche una ragione di essere di per sé, indipendentemente dallo spettacolo, e quindi mentre il disco lo spettacolo si intitola Un clima nuovo, nel disco l'ho voluto intitolare Un po' gabbiano, anche perché Un po' gabbiano è una delle tracce dell'album. E che poi comunque la eseguiremo, però così anticipando qualche cosa, mi sono immaginato questo gabbiano che vola un po' sopra tutte quante le storie che vado a raccontare. Poi in realtà all'interno del disco è l'unica canzone allegorica, il gabbiano diventa un po' l'allegoria dell'uomo moderno, e quindi nel suo abitare, il gabbiano, le discariche, ci ho visto anche un po' l'abitare dell'uomo moderno, una modernità che diventa sempre più una discarica, sia in senso pratico sia in senso figurato. Rispetto allo spettacolo, hai strutturato le musiche per il disco in maniera leggermente diversa o hai ripreso in toto le musiche dello spettacolo? Ma guarda, l'idea proprio base è stata quella di riprendere le musiche dello spettacolo, anche proprio gli arrangiamenti dello spettacolo. Poi ci abbiamo lavorato un po' insieme a Riccardo, al produttore. Riccardo, certo. Però ecco, all'80% sono rimasti quegli arrangiamenti lì. O poi ovviamente sai, nel disco magari ci puoi mettere un musicista in più, magari puoi anche lavorare diversamente, insomma. Però a livello proprio di strutture, di idea musicale, è quella. È quella, praticamente. Ecco, andiamo a sentire un'altra traccia dal CD? Certo, certo. Ecco, allora andiamo ad ascoltare, e poi ce ne parleremo ovviamente, la traccia numero 7 che si intitola Al Polo Nord. Niente più ghiaccio, solo mare. La nostra zattera si sta sciogliendo al sole. Siamo partiti per errore. Su un pezzo d'isola polare. Niente più ghiaccio, solo mare. Il capo branco si è buttato in acqua per pescare. Sono già passate 5 lune. Le nostre stelle sono lontane. Le vedo strane più lontane. E questo cielo sembra diverso. Sembra più storto, non come il nostro. Al Polo Nord hanno avvistato un orso un po' disorientato, han detto che sarà senz'altro naufragato su un pezzo d'iceberg che si è staccato, si è scongelato e l'orso bianco non riconosce il mondo in vuota, vuota di stima. Thank you. niente più ghiaccio, solo mare. Il capobranco si è tuffato per cercare di ritornare dietro a una rotta di fortuna. E mentre cresce un'altra luna, quel pazzo si sarà già perso in questo mare che sembra diverso, sembra più caldo, non come il nostro. Al polo nord hanno avvistato un orso che si era smarrito, han detto che sarà senz'altro una bugia, una paura, una fantasia. E l'orso bianco in mare aperto non riconosce il mondo e nuota, nuota distinto. Niente più ghiaccio, solo mare. La nostra zattera si sta sciogliendo al sole. Siamo partiti per errore. Rockwave, l'onda del rock. E con la risacca del mare, insomma, finisce questa Al Polo Nord. Ricordiamo Emanuele Bocci questa sera in questa versione Rock Wave con Francesco Galante e Maurizio Calzavara. Appunto, Emanuele Bocci dall'altra parte del vetro insieme al fratello Christian, che è Cristiano, scusami, beh, Cristiano. Ogni tanto qualche lapsus ce l'ho anch'io. Puoi chiamare Cristian, tra l'altro. Anche Chris. Puoi chiamare anche Chris, anche facciamo... Chris. Vabbè. Ma Cristian, perché in Veneto ci sono dei cognomi toscani che ci sono anche in Veneto senza la I finale, quindi se gli levi la O cambia niente. A proposito, Emanuele, intanto parliamo un momento dell'idea di questo pezzo, che è molto interessante, lo scioglimento di ghiacci. Sì, sì, anche questo brano, come molti dei brani che scrivo, si ispirano a delle cose che sento, fatti di cronaca, notizie che vengono date. E anche questo è un fatto che risale a questo punto a 3 anni fa. Mi ricordo che addirittura mi ricordo il giorno, perché poi feci una ricerca, 21 agosto del 2008, e fu annunciato la presenza di questi orsi polari al largo delle coste dell'Alaska. Ci fu una grande preoccupazione da parte ovviamente del mondo ecologista, animalista, WWF, eccetera, eccetera, perché si pensava che questi ghiacci si fossero addormentati addirittura, cioè piano piano la notizia venne un po' ingigantita e romanzata dalla stampa, e si parlò di questi orsi polari che si erano addormentati su un iceberg che si era staccato dalla terraferma, poi si era sciolto, e quindi vagavano. Esattamente. Poi in realtà io ho ricercato la notizia su internet e qualcuno ha detto, no guarda, era una bufala, cioè raccontata così era un po' una bufala, però in realtà sono fatti che stanno accadendo, cioè perlomeno i ghiacci si sciolgono. E poi forse è anche vero che gli orsi polari si spostano dal loro habitat per andare a cercare il cibo, perché c'è sempre meno cibo, quindi anche loro si spostano, perché poi i ghiacci si sciolgono, cambia l'habitat, cambia tutto l'ecosistema. E niente, partendo da questa storia, che forse era una favola, quindi con un fondo di verità, o forse era una bufala, io ovvero una bugia, io ho voluto, ecco, raccontare questa sorta di favola di questo orso polare, e un po' per affrontare così in questi termini questo argomento, che secondo me è un argomento di una certa urgenza. Insomma, è anche importante che in qualche modo un cantautore, o comunque chi lavora nel mondo dell'arte, sia che sia musica, letteratura, arte figurativa, insomma, che si inizia anche a parlare di argomenti di questo tipo, perché da una parte secondo me c'è molta ignoranza, dall'altra parte c'è questa grossa spaccatura, no, tra i negazionisti e i catastrofisti, e quindi non si sa di preciso quale posizione prendere. Io penso, da catastrofista, insomma, che comunque una parte di responsabilità anche noi ce ne abbiamo, e è già molto importante comunque parlarne, diffondere delle idee, o comunque parlare intorno a questi argomenti. Cioè, la società porta all'inquinamento, c'è poco da fare. Sì, infatti. Però ci dimentichiamo che sì, che i ghiacci sono fondamentali, sì, per la nostra esistenza, c'è, sì, poco, no, da fare. Anche perché sì, se si continua così, piano piano, gli orsi polari vengono da noi, in Valpadana anche probabilmente. Allora, una cosa che ho visto subito, anzi una delle prime cose che ho notato quando ho visto il tuo disco è che la distribuzione è niente proprio di meno che Audio Globe. Sì. Com'è stato? Com'è successo? Che ti riveli la verità su questo. Ma come ti dicevo, io ho molti amici. No, no, a parte gli scherzi. Parlando sempre, ritornando al discorso, lavorare, cercando di ottimizzare le forze, le energie, mm-hmm, nel momento in cui ho registrato e ho finito di registrare questo disco, l'ho fatto sentire tra le altre persone a un amico, appunto, che ha un'etichetta che è distribuita da Audioglobe, sì, e niente, lui ha detto sì, guarda, io sono contento comunque di far uscire il tuo disco con questa etichetta, per me era importante per questo tipo di distribuzione, perché comunque sia garantisce perlomeno sulla carta di uscire, insomma, su tanti punti vendita. A livello nazionale. A livello nazionale, sì. E anche se poi sai, dischi, specialmente insomma, i cantautori del sottobosco come noi, cioè, utilizza sempre l'immagine ecologista, insomma, e i cantautori del sottobosco vendono poco nei negozi, però insomma comunque sia il fatto che se una persona vuole comprare il disco mio, magari va sul sito, vede il punto vendita più vicino e magari lo ordina, perché magari lei non ce l'hanno, insomma lo può trovare, lo può acquistare. Certo, beh, sicuramente è un punto in più, sì, no? nella possibile commercializzazione di un prodotto. Sì, no? Ho venduto penso 22-23 copie, insomma, va bene, sta un classifica per due minuti. A proposito di una cosa che mentre il pezzo andava parlavamo, Emanuele e Cristiano, del buon riscontro che hai avuto nel Veneto. Sì, il Veneto ti ama, non lo so, è successo che quest'estate per esempio sono stato in Veneto al festival Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, sì, di Rovigo, vicino a Rovigo, Villa Dose. Esatto. Lì ho conosciuto un altro gruppo che addirittura mi ha già chiamato per un'esibizione di una festa che fanno al loro paese il 1° di maggio. Già l'anno scorso sono stato qui in Veneto al Festival Risonanza Unplugged e anche lì ho avuto veramente un ottimo riscontro, insomma sono stato più contento, ecco, del riscontro da parte delle persone, poi i commenti che mi sono stati fatti, le mail spedite, poi Facebook, perché ormai tanto si naviga su questi social network, e poi insomma anche recentemente, 2 settimane fa siamo tornati a suonare in Veneto e, in un locale sempre della provincia di Treviso, comunque sempre comunque della zona, e grazie anche a questa amicizia che con un cantautore proprio di queste parti, sì, di Cittadella, si chiama Pierpaolo Meneguzzo, nome d'arte One Man Pier, ci siamo anche con lui conosciuti per caso, insomma, tramite la rete, poi mi ha chiesto se potevo registrare una parte parlata nel suo disco, che è uscito, il suo secondo disco anche lui autoprodotto, è uscito, ripeto, poche settimane fa, mi ha detto se potevo partecipare alla presentazione ufficiale di questo suo ultimo lavoro. Io sono stato contento di farlo, siamo venuti su con i musicisti, insomma anche lì ho un buon riscontro e ci sono anche altre date, insomma, che ci aspettano da queste parti. E insomma, ecco, ci sono delle zone dell'Italia che sì, è abbandonato la provincia di Grosseto e sì, sei andato ben oltre, sì, è una cosa molto positiva. Infatti. Spazio alla musica? Certamente, Francesco. Cosa facciamo? Dal vivo? Sì, dal vivo. Dal vivo. Emanuele. Allora, io in continuità... Sì, stanno cercando di... Perché mi dai questi suggerimenti? Che ne so, perché devo decidere lo spartito. Te devi capire dalle prime note che io faccio. Dalle prime note che io faccio, io vorrei continuare a parlare del... mi devo girare per forza, vorrei continuare a parlare del concetto del global warming e dell'orso polare. Sì, certo. Perché più o meno come abbiamo detto, l'orso polare sta diventando... Anzi, è diventato ormai il simbolo del riscaldamento globale. Però io, per esempio, a casa mia, già prima dell'orso polare, c'avevo un altro simbolo, quando ero anche più piccolo, del riscaldamento globale, che era mia nonna, che detto alla toscana, la mia nonna, insomma, non posso non dirlo, alla toscana. E, Perché la mia nonna aveva questa particolarità. E, tutte le volte che sentiva un cambio di stagione le faceva male l'anca. Quindi capivi subito. Sì. Poi a seconda proprio di come camminava io capivo se pioveva, se c'era la nebbia, insomma se c'era il ghiaccio. E poi niente, ora recentemente nonna cammina un disastro, io gli dico vabbè pazienza, il meteo si guarderà su internet, e gli dico d'altronde sei invecchiata, cammini sempre peggio perché se l'artrosi, insomma. Lei mi dice no, non c'entra niente l'artrosi, non sono invecchiata, l'anca mi fa sempre male perché non sento più i cambi di stagione. E niente, poi mi inizia a parlare di queste piogge che diventano frane, purtroppo. Di queste frane che diventano alluvioni, degli alluvionati che vengono sfollati e degli sfollati che vengono dimenticati. Vivo al 328 di case abbracciate in un lotto, tetti di benevolenza, fumo sfollati d'urgenza. Campo divenne un quartiere di container, roulotte e villette fatte a lamiere. Chi disse è d'emergenza, perlomeno siete al sicuro, abbiate pazienza. Oltre la periferia non capita più tanto spesso la polizia. 6 anni un giorno qualcuno sperando si è accorto, costruivano un meglio, spianavano e fu l'aeroporto. Na, na, na. Qualche volta il traffico cala e appare la luna. Na, na, na. Chiudo gli occhi e riesco a dormire, ma quando sono lì lì per sognare c'è un nuovo sbattito d'aria motore. Il sole cercava una breccia, la collina sfiancata franava a colpi di pioggia. Chi disse che fortunati, scampati da fine sicuro al sicuro alloggiati. Parte almeno ogni ora, un aereo il cielo rimbomba e trema la casa. La nonna c'ha un'anca fasulla, se non trova qualcosa di stabile, schianta per terra. Qualche volta il traffico cala e appare la luna. Chiudo gli occhi e riesco a dormire, ma quando sono lì lì per sognare c'è un nuovo sbattito d'aria motore. Vive in centro, fan ciao con la mano se vedono gli aerei passare. I nostri son nati nervosi, tiran sassi all'aereo che vola, si nascondono dietro una ruota e poi grida a squarciare la voce, insultando il pilota. Rockway, l'onda del rock. E allora, altro pezzo dal vivo, composto e realizzato da Emanuele Bocci, con poi al contrabbasso Cristiano Bocci. E ricordiamo invece, Emanuele, tu hai suonato chitarra, perché ovviamente in radio non ti vedono e quindi diamo queste notizie utili, chitarra e poi armonica bocca, no? Sì. Come mai l'utilizzo dell'armonica? C'è anche in altri pezzi? Allora, nel disco no. Nel disco l'armonica è uno strumento che non è suonato, se non sbaglio. No, c'è la fisarmonica. C'è la fisarmonica, non c'è. Sì. Ma guarda, dal vivo, ripeto, proprio in virtù delle situazioni in cui funzioni, dove andiamo a suonare, se siamo in duo, se siamo in trio, essendo anche abbastanza forte questa componente insomma improvvisativa, quindi ci sono proprio delle parti delle canzoni che scrivo che prevedono un'improvvisazione insomma di sassofono, di pianoforte, di fisarmonica, cioè, quando non c'è il sassofono subentra l'armonica a bocca, laddove insomma lo può degnamente e decorosamente sostituire. E poi l'hai dato una colorazione blues, molto blues, sì, secondo me. Sì, infatti, no? Poi sai, comunque sia comunque l'armonica sia a bocca si sposa bene, certo, molto bene con il blues, chiaro, quindi lo richiama. E tutto sommato, insomma, poi il blues si sposa bene con il jazz, quindi alla sì, fine, si sposa bene tutto fine, praticamente. Alla fine sì, sono cose che insomma vengono abbastanza naturalmente, spontaneamente. Tu l'hai già ripetuto prima, possiamo ripeterlo un'altra volta. Alla fine dello spettacolo dici una frase. Sì. E la puoi ridire questa frase. Sì, che proprio a dirla tutta, ora lo spettacolo conclude in un altro modo, però è la frase che secondo me sintetizza benissimo lo spettacolo. Esatto. Dunque la frase è: siamo liberi, noi uomini, siamo liberi come gabbiani, liberi di volare da una discarica all'altra. Ecco, da una discarica all'altra. Sì. Quello è fondamentale, secondo sì. me. Sì, un po' questa è tra l'altro anche un po', se si vuol dire così, la sintesi della canzone un po' gabbiano. Perché ecco, io sono rimasto molto colpito, insomma, tante volte dal vedere queste enormi discariche che comunque ci sono in giro per il mondo, insomma, non soltanto nelle zone, dalle immagini che noi vediamo in televisione o in qualche rivista. Cioè, siamo veramente circondati dalla spazzatura che c'è sempre di più perché continuiamo a produrre sempre più spazzatura, perché in una società che consuma, quindi legata al consumo, non si può fare a meno di produrre spazzatura e rifiuti. E poi anche qui apro e chiudo la parentesi. Poi il problema è che non ci sono soltanto i rifiuti che si vedono, quelli solidi, ma ci sono anche quelli che stanno nell'aria, che è anche peggio, ritornando al discorso del povero orso polare. E niente, dicevo, c'è questa immagine dei gabbiani che abita queste discariche, che è veramente a volte inquietante, cioè è grottesca, è altisonante, perché comunque sia il gabbiano, benché sia considerato lo spazzino dei mari, comunque sia è anche un animale che è nell'immaginario collettivo considerato tuttora il simbolo della libertà. Se poi vedi il gabbiano che sta in branchi sulle discariche, dici: alla faccia della libertà. E quindi questi gabbiani sì, si spostano, ma si alzano per mangiare, si spostano, tra l'altro vivono proprio in condizioni schifosissime, insomma. Qualcuno può andare indietro con il tempo, il gabbiano Jonathan Livingston. Sì, infatti. Infatti già da lì c'era tra l'altro questa contrapposizione, certo, no, tra lo stormo Buon Appetito e il gabbiano invece che sperimentava sul volo. Esatto. E quindi sarebbe comunque bello essere liberi come gabbiani, ma in una società veramente, veramente libera, dove si può volare non soltanto da una discarica all'altra. Questa affermazione è molto pessimista, però insomma, vabbè. No, notavo tu, Maurizio, ti sei ritrovato evidentemente. Dove abiti? Non tanto distante da qua, tu ben sai dove sì, abiti. No, no, sto scherzando sì, ovviamente. Sì, amici di Blu Radio Veneto, allora stiamo ascoltando Rock Wave, come sempre dei protagonisti dal vivo nelle nostre frequenze alla sera su questa emittente. Questa sera ci stiamo godendo in tutta tranquillità questo lavoro intitolato Un po' gabbiano di Emanuele Bocci. Andiamo a sentirci un'altra traccia da questo CD? Che dite? Sì, sì, certamente. Ecco, allora, giusto perché così diamo più spazio anche alla musica. Poi si riposa lui perché è stanco, sta in piedi, esatto, con contrabbasso. È vero però, Cristiano, mi dispiace, sei l'unico in piedi. È uno strumento un po' sfigato. E fortunatamente ho quello elettrico questa sera. Quindi che pesa di meno. Pesa molto meno. Infatti, sì, sì. Va bene, allora, dicevo, ci ascoltiamo la prossima canzone, la traccia numero 9, si intitola Senza vedere. Ascoltiamo. Il mare ci rapina e siamo ostaggio, a casa ci hanno dato per dispersi, ci avran dimenticato, avran rimosso, sperare in fondo è l'alibi dei pazzi. Partimmo senza sole e senza luna, di stelle poche tra nuvole gonfie, mercante di persone il timoniere, virava a colpi di catarro e smorfie. Abbiamo nuotato senza vedere, senza una rotta, senza una via, senza una sponda, soltanto il mare. senza una via. Qualcosa saltò via dalla lamiera, la prora lacerata iniziò a bere. L'altro mercante scuro e a testa bassa saltò sopra una specie di scialuppa. Oltre 300 sagome nel buio, con gli occhi bianchi e di chi già capisce, la barca troppo gravida di vite, come una madre che poi partorisce. Abbiamo nuotato senza vedere, senza una rotta, senza una via, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. Ci dissero tranquilli è tutto a posto e siamo tutti nella stessa barca, ma l'onda già faceva il mare grosso e come una bocca aperta la risacca. A poppa quei gran figli di puttana, Spavaldi e con la giubba salvagente, a ripetere tranquilli non temete, vedrete resteremo tutti a galla. Abbiamo nuotato senza vedere, morsi dai crampi, stretti dal buio, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. Senza vedere, senza una rotta, senza una via, senza una sponda, soltanto il mare, senza una via. L'onda del rock. E allora abbiamo ascoltato questa bella canzone, la traccia numero 9, Senza vedere, di Emanuele Bocci. Ancora ben trovati amici, ancora ben trovato a Emanuele e a Cristiano. Maurizio. Sì, salutiamo un momento il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che vi ha voluto fortissimamente qua stasera. Ciao Alberto, grazie. Ciao Alberto. Grazie, grazie. E parliamo una cosa molto interessante, questo contrabbasso elettrico Cristiano, che è fatto da un liutaio, mi dici? Sì, questo è stato costruito da un liutaio di Cascina, che si chiama Emiliano Nencioni, e la sua liuteria si chiama la liuteria Birnel. Diciamo che era un periodo che stavo cercando un contrabbasso elettrico, anche come si è detto prima, il jazz sperimentale, spesso io collego tutto, tantissime cose al contrabbasso, e con l'acustico avevo dei problemi di risonanza. Quindi gira un po' fra i vari prodotti di fabbrica e non, alla fine ho trovato questo. La prima volta l'ho provato sia pizzicato che con l'archetto, sono rimasto folgorato, e poi gli ho chiesto, guarda, per piacere dipingimelo tutto di nero satinato, perché a me piacciono i colori scuri. E quindi... Ed è comodissimo, perché ecco, in queste situazioni dove noi ci spostiamo in duo, tante volte riusciamo a caricare tutto in una macchina, se c'avevo il contrabbasso acustico sarebbe un problema, sì. Bello, bello, molto bello, un bel suono. Emanuele, parliamo un momento del pezzo, questa conclusione, sì, col piano che tu suoni, chiaramente. Aspetta, no, oddio, non ho capito. No, parliamo un momento del pezzo che abbiamo sentito adesso. Ah, ok, perfetto. Okay. C'è un piano al finale, il piano, sì, col, sì, piano. Sì. E dunque questo brano si intitola, abbiamo appena sentito, si intitola Senza vedere, ed, certo, è ispirato ad un fatto, anche questo realmente accaduto, nel 26 dicembre del 1996. Tra l'altro è un fatto che è passato alle cronache come il naufragio di Porto Palo, durante la traversata del mare, insomma, dalle coste africane fino all'Italia, ci fu un naufragio dove persero la vita forse circa 300 migranti. E è un fatto che tra l'altro è passato molto inosservato, perché un po' se ne è parlato, però siccome era il periodo di Natale, chissà, forse specialmente le nostre televisioni, per non aggravare comunque gli animi, le sensibilità, insomma, della popolazione, non ne hanno poi parlato così tanto, in realtà è stato un fatto drammatico. Poi a distanza di, non so se di mesi o di anni, insomma, è stato ritirato fuori, anche perché purtroppo i pescatori della zona hanno iniziato a tirar fuori con le reti dei resti umani, e quindi è un fatto molto drammatico. E niente, io vedendo uno speciale, una serie in televisione proprio su questi fatti, così poi mi è venuto abbastanza spontaneo scrivere questo brano. E tra l'altro è una canzone con cui quest'anno ho partecipato al festival legato a Amnesty International, Voci per la Libertà, che si tiene a Villa Dose, sempre in Veneto. E perché comunque, insomma, ecco, in questo caso ogni persona, secondo me, in questo mondo dove ci sono, continuano ad esserci tutti questi divari tra stati molto più forti e stati molto più deboli, molto più ricchi e molto più poveri, la migrazione è un fatto che non si può comunque arrestare, è un fatto abbastanza fisiologico, secondo me, è normale. E quindi queste persone si spostano proprio con il diritto anche di star meglio, poi purtroppo finiscono così. Ci fermiamo noi a volte a giudicare l'evento della migrazione, però si perde di vista che ci sono proprio delle persone con dei drammi umani che a volte anche si concludono in un modo, insomma, estremamente drammatico come questo. E l'uso del piano dà proprio la chiave di lettura drammatica del pezzo. Sì, poi tra l'altro anche qui, sempre riallacciandosi al discorso che abbiamo fatto prima, ogni storia, ogni canzone si adatta bene a un certo tipo di musica, e comunque si compenetrano bene a vicenda. C'è la scelta proprio di utilizzare molte percussioni in modo da rievocare proprio delle atmosfere comunque legate al Mediterraneo. E il finale col piano. Il finale col piano, e che poi è arricchito dagli archi, che comunque dà una certa drammaticità. Insomma. Certo. Sentiamo un pezzo dal vivo, cosa dici? Mi guardi, sì, io resto impazzito. Sentiamo un pezzo dal vivo adesso. Ah, sì. Sentiamo un pezzo dal vivo, dal va vivo. Bene. Allora, che cosa allora, c'è? Allora, guarda, io ora questa canzone è piuttosto drammatica, pesante. Vorrei riazzeriamo un attimo, sì, il discorso. Il discorso, e sempre in continuità con quanto abbiamo comunque detto, perché poi un po' che abbiamo una sorta di concept album, sì, cioè, perlomeno a livello così concettuale, a livello di idea di fondo. Quindi si parla anche molto dell'uomo moderno, e l'uomo moderno che c'ha, fondamentalmente si può descrivere attraverso due o tre caratteristiche: il fatto che non trova posto per la macchina, l'abbiamo detto poco fa, il fatto che è circondato dalla monnezza, e poi l'altro fatto è che soffre di disturbi psicosomatici, generalmente che gli vanno a intaccare un corretto funzionamento del sistema gastrointestinale. L'uomo moderno è l'uomo che solo nella sua intimità riscopre il suo lato B, il suo lato umano. Nella pausa pranzo va a casa di corsa, bussa alla porta, quella giusta, toc toc, dice: amore, fai presto e libera il bagno, mi sa che ho bisogno e do poco tempo, mezz'ora e rientro, ci provo soltanto, mi siedo sul cesso, tu portami il pranzo, già che sono seduto approfitto, mangio. Un pranzo moderno, o primo o secondo, ecco, pesce no, perché c'ha le lische, la sera ci perdo tempo, va sempre di fretta, stressato da sballo io, uomo moderno, ma ci ho fatto il callo e ora mi stanco a star fermo, lavoro e produco, il capo è contento, però si fa cupo se chiedo un aumento, singhiozza blalbetta, singolfa, mi sento anche in colpa. Sono un automa e vivo in automatico, non ho più neanche un senso critico, ormai sono parte di un circuito, reagisco diventando stitico, rispondo ma con diligenza alla dialettica di questa azienda. Sono un automa, io sono un automa. L'amore moderno è un fatto di ritmo, di incastri di tempo, a volte ti incontro. Parliamo nel bagno, parliamo sul letto, ti incontro nel sonno, approfitto e ti abbraccio, quando mi dai la schiena e ti dico buonanotte, a domani per cena, il capo mi ha detto: sei oltre il tuo tetto, di ore non posso pagarti del tutto. Ma il capo mi ama e mi stima, mi ha detto: recupera e stacca un po' prima. Sono un automa e vivo in automatico, non ho più neanche un senso critico, ormai son parte di un circuito, reagisco diventando stitico, rispondo ma con diligenza alla dialettica di questa azienda. Sono un automa, io sono un automa. Amore, fai presto e libera il bagno, mi sa che ho bisogno mezz'ora e rientro. Rispondo ma con diligenza alla dialettica di questa azienda. Sono un automa, io sono un automa. E voilà, bella. Molto bella, molto bella. No, viene da sorridere, no? Perché uno poi si ascolta bene le parole, si immedesima. E quante volte è successo una cosa del genere? No? In questo mondo che si divide tra gli stitici e i colitici, no? Noi già. E poi no, appunto i problemi, i pensieri di ogni giorno poi vanno lì a finire sui problemi di pancia, sulle cattive digestioni e quant'altro, vabbè. E comunque nella mezz'ora di seduta riesce anche a trovare il tempo di mangiare, sì, qualcosa. Giusto per colmare il vuoto. Di no? Leggere. Va bene, bella, bella. E com'è che si intitolava questa? Questa Sono un automa. Sono un automa, hai capito. Vabbè. Nel disco c'è l'Hammond del tastierista, sì, di Gabue. Sì, c'è qui, sì. So, ha un assolo di organo Hammond. Tra l'altro, anche un po' per riallacciarsi con il brano che comunque abbiamo sentito prima e di cui abbiamo parlato prima. Diciamo, ecco, la mia matrice è un po' questa, cioè cercare di parlare sia di argomenti seri, anche drammatici, insomma, e laddove è possibile con ironia, perché tutto sommato anche questa canzone è piuttosto, certo, drammatica, sì, però è piuttosto tragicomica, sì, in modo ironico. Però poi dove proprio non si può, insomma, rimanere alla descrizione il più possibile fedele dei fatti, insomma. Qua c'è un piccolo, se mi permetto, un piccolissimo collegamento a Gaber, cosa puoi? Sì, sì. Leggermente, sì. Sì, no, magari. Nella forma ironica. Ti puoi permettere. Sì, mi posso permettere, nella forma ironica. Perché poi nella realtà, cioè il teatro canzone comunque sia una forma di linguaggio. Certo. Di cui se non è stato proprio in assoluto l'ideatore, comunque l'ha fatto conoscere a tutti. L'ha fatto veramente conoscere a tutti, sì, sì. Poi, ecco, sono anche contento, tra l'altro, che insomma, qua e là in qualche recensione si parla del mio disco come un lavoro di teatro canzone. È vero, sì, merissimo. E quindi questa cosa, insomma, mi fa piacere. E no, mi lusinga quindi che tu dica questa cosa. Sì, perché a me viene in mente lo shampoo, sai? Lo shampoo, sì, era ironico, sì, anche quello. Sì, parla dello shampoo, uno si fa lo shampoo. Sì. Mentre si fa lo shampoo, pensa a tante cose. Sì, infatti, ecco. Infatti. Come al bagno. Esattamente. Va bene, allora facciamo così, ci ascoltiamo un'altra traccia perché è giusto dare spazio alla musica in maniera che tutti conoscano al meglio Emanuele Bocci. Ricordo che c'è anche il tuo sito, che è www.emanuelebocci.it, che troviamo all'interno? Ma tutto, insomma, ci sono anche foto di Cristiano quando era bambino. La biografia di entrambi, tutto, insomma, della, sì, famiglia Bocci, ecco. No, cioè, sì, c'è un po' di tutto. C'è la mia discografia, insomma, con qualche anche brano registrato e pubblicato anche in precedenza. C'è tra l'altro il videoclip, comunque in una versione HD. Sì. Poi ci sono un po' di credits, insomma, un po' di notizie. Andrebbe un po' aggiornato perché l'ho rivisto recentemente, quindi anche sulla biografia ci sarebbero da aggiungere un po' di cose. Beh, d'altronde. Però insomma, ecco, ci sono un po' di foto, insomma, un po' di ricordi così. Bene, bene. Allora, prossima canzone che abbiamo in scaletta è la traccia 11, sempre presa da questo tuo CD un po' gabbiano. Ricordiamo, il titolo è Il musicista. Thank you. Potrei fare il musicista, tanto il tempo qua mi avanza. Ero anch'io su quella lista, hanno fatto una mattanza. Qualche giorno e mi riprendo, resterà solo una sciatica. Per adesso quel che sento lo dirà la fisarmonica. Con un coro nel piazzale la parola la prendemmo noi. Che cos'è una fabbrica senza operai? Hanno calli queste mani, fan fatica in mezzo ai tasti. Che peccato, da bambino conoscevo molti pezzi, li suonavo nelle feste, canti da dopo lavoro. Da domani sarò solo una voce di quel coro. Giuro amore, mi riprendo, ci faranno anche politica. Io per oggi quel che sento lo dirò alla fisarmonica. Con un coro nel piazzale la parola la prendemmo noi. Non ci sono fabbriche senza operai. Canzone che si intitola Il Musicista, l'abbiamo ascoltata. Ancora benvenuti, siete su Rock Wave, la trasmissione della sera della nostra emittente, appunto, Blu Radio Veneto. Io sono Francesco Galante, dall'altra parte del vetro abbiamo Maurizio Calzavara con i nostri ospiti di questa sera. Il nostro ospite mi ha accompagnato diligentemente dal fratello, ricordiamo Emanuele e Cristiano Bocci. Allora, una domanda volevo fartela, ho visto che questo disco qua, quando è che l'avete è uscito? Ma guarda, è uscito esattamente un anno fa. Un anno fa, quindi ottobre 2010. Ottobre 2010, quindi lo state portando in giro, sì. Come dicevamo, con la sotto forma di teatro canzone, via dicendo. Hai già preparato qualcos'altro nel guarda, cassetto? Sì. Nel cassetto sì, quante sì, canzoni sì, hai? Prima. Ma senti, proprio ieri l'altro sono andato a parlare da un potenziale produttore e quindi sarà sempre un'autoproduzione, però comunque certo. C'è la parte della produzione esecutiva e artistica, comunque è bene condividere con un'altra persona anche per confrontarsi eccetera, e più o meno c'è già l'idea per scrivere un altro album e ci dovrebbero essere... Ora da valutare, insomma, un attimino, perché ancora qualcuno è proprio allo stato embrionale, insomma. Già 7 canzoni, quindi sì. Basterebbero altre 2-3 e poi... Sono canzoni sempre con... c'è un fil rouge anche qui, oppure... Guarda, c'è un fil rouge, però cambia completamente... cambiano le tematiche. Lì sì. Vado un pochino più sull'introspettivo, sul personale. Sì. C'è sempre parecchia ironia, insomma... qua e là tocco magari qualche argomento, se non caldo tiepido, diciamo così, però ecco, più di rapporto, insomma, sì, più di rapporto, sì, anche c'è qualche canzone anche che parla maggiormente, insomma, degli aspetti legati ai sentimenti, che per me è un po' una novità perché non lo faccio quasi mai, però non lo so, ora è una fase in cui mi viene forse più facile anche perché sono babbo da 2 anni come quindi, ti capisco quindi insomma quindi ho detto ma proviamo a fare un lavoro così, insomma, anche perché guarda, tendo a parlare molto spesso dell'attualità, però stiamo attraversando un periodo talmente confuso che dico aspettiamola, vediamo che succede prima di descrivere, perché ci sta che cambiano le cose talmente rapidamente. Che... Stiamo sulle cose reali, quelle che abbiamo a casa, per esempio, sì, la famiglia. Proprio a casa, sì. D'altronde Quindi anche tu sei uno di quelli che dorme poco di notte, ho capito. Da un mese un po' di più. No, ora tra l'altro con l'ora legale ci ha rifregato perché dormiva benino, però ora si rialza la mattina verso le 5:30, 6 e va in forno al pane. Sì, mio figlio sarebbe un buon fornaio per gli orari di sonno. Benissimo. Tu hai partecipato al premio De André del 2005, hai partecipato al premio Bindi del 2011 e nel 2011 cosa hai partecipato? Nel 2011 è appunto già citato Voci per la Libertà, sì, dove sono arrivato in finale, poi ho partecipato e ho vinto due festival. Bene. Uno è il premio dedicato, intitolato a Stefano Rosso, sì, musicista romano, cantautore romano, si è scomparso 3 anni fa. E qui voglio citare anche un mio amico cantautore da cui sono stato recentemente, insomma, a fare un live, Simone Avincola, sì, che lui tra l'altro è stato il vincitore della prima edizione, poi ha portato avanti il festival in questi 2 anni, insomma è nato un rapporto di amicizia, anche di scambio, insomma speriamo di fare qualcosa anche con lui. E poi niente, ho partecipato e ho vinto anche Botteghe d'Autore. Bene. Che è un festival che si tiene ad Albanella in provincia di Salerno. E tutte e due quest'estate, insomma è stata una bella soddisfazione, perché tra l'altro ecco, da solista erano i primi due premi che proprio vincevo. Tra l'altro ho vinto sia il primo premio sul premio Stefano Rosso, ho vinto anche il premio con miglior testo, portando la canzone abbiamo sentito poco fa sugli immigrati, sui migranti anzi. E invece a Botteghe d'Autore ho vinto anche il premio come miglior arrangiamento, ma non poteva essere altrimenti perché con me ci suonava anche Cristiano Voci, certo, in quello caso, vedi. Insieme al quartetto, formazione completa, con la batteria, anzi tra gli altri ricordiamo anche il batterista che ci segue da quest'estate, Dario Pagani, che insomma prevalentemente suona con noi nel periodo estivo perché d'inverno i posti sono stretti e il batterista non lo vogliono, poveraccio, povero Pagani. E poi Francesco Diodato, l'abbiamo nominato anche, certo, prima, del sassofonista clarinettista, che non suona nel disco, ma insomma ultimamente sta molto suonando insieme a me nel live. E poi un'altra cosa, un po' di anni fa, però è già positiva, visto che hai citato il tuo comune di Grosseto, sì, artista dell'anno. Ah, sì, sì, sì, sì. Quindi bisogna dirle ste robe. Da questi e dunque, era esattamente 2009. Tra l'altro il giorno prima che nascesse mio figlio, Carlo, perché la notte sono iniziati i dolori del parto. E sì, è un titolo che viene dato, insomma, ogni anno a qualche personalità che si è distinta. Quell'anno lì nel settore musicale comunque sono stato premiato, mi hanno chiamato, insomma, bene, avrai la targa, un bel riconoscimento. Ma guarda, lo sai, ma l'ho fatto. No, il premio consisteva in un regalo, un bel regalo che tra l'altro era una telecamera, e io per me è stato un ottimo regalo, perché poi ho iniziato a riprendere ovviamente, certo, il bimbo e anche i live, insomma. Certamente. E vabbè, quindi la musica diventa fondamentale anche per questo. No, partecipare ai festival è indubbiamente interessante anche per, sì, farsi vedere, per farsi conoscere. Adesso so che dobbiamo fare una canzone dal vivo, giusto? Sì, sì. È vero o no? Sì. Che cosa ci fai sentire? Ma faccio sentire un brano che si intitola Dove era il bosco. È un brano, tra l'altro, che ho scritto già diversi anni fa, che eseguivamo anche con la band che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, con la compagnia musicale Le Voci del Vicolo. Poi l'ho continuato a tenerla e continuiamo a eseguirla dal vivo. Anche adesso, anche perché è una storia che è ispirata ad una sorta di storia-leggenda delle mie parti, del Monte Amiata. Si racconta che in tempi non sospetti arrivarono dei camion militari e scaricarono nella vecchia miniera dei rifiuti. Quelli erano sospetti, invece. Ci ho lavorato un po' di fantasia e ho scritto questo brano. Si intitola Dove era il bosco. E allora lo ascoltiamo. Ci fu uno sgretolio di ghiaia e di nascosto. Qualcuno andava giù in miniera, carri armati o solo camion militari. Come un lampo scesi in paese urlando è guerra, e in un minuto tutta la gente fu per strada o non capiva o già chiedeva al cielo aiuto, il poliziotto col pigiama che intimava calma e il sindaco pensò che fossi matto, poi sbiancò del mio spavento. In piazza vecchia si riunì tutta la giunta e convocò 40 eroi tra veterani, mercenari avanti in marcia, tra buio e luna e i passi e la paura, e avanti in marcia, coraggio per di qua, le mani fredde al calcio del fucile all'alto là, puntate e non sparate. Sono rimasti ciuffi d'erba e qualche sasso e bestie strane storpie, ma nessun assalto, sebbene avessimo doppiette caricate a pallettoni, sette pale e tre forconi. Diplomatico il tenente riferì cosa da niente, un rimessaggio, una missione e di rifiuti da buttare proprio in fondo alle miniere, e pane al pane e vino al vino. Non capì niente nessuno e ci rividero tornare un po' storditi giù in paese. Salvi mai rimasto un tarlo quella notte, specie adesso che qua è tutto un altro posto, tra buio e luna e passi e la paura, avanti in marcia, li sento, sono qua, la guerra no, finì 10 anni fa, e all'alto là, puntate e non sparate. Rockwave, l'onda del rock. E allora, bella anche questa canzone che ci ha proposto dal vivo Emanuele Bocci. Abbiamo ancora 13 minuti da trascorrere insieme, quindi facciamo in tempo a giusto chiacchierare ancora qualche minuto e poi ascoltare le ultime due canzoni. Una la sentiremo dal CD che, anticipo già agli amici che ci ascoltano da casa, sarà la traccia numero 3, intitolata Che Pacchi, e poi toccherà a voi salutarci con un'ultima canzone dal vivo. Maurizio. Sì, vorrei ritornare a questo pezzo, la versione che hai fatto qua di questo pezzo, mm-hmm. che a me interessa, uh-huh. una versione, anche questa pseudo, non dico pseudo, un po' drammatica, secondo sì, me. Sì, sì, la storia in realtà è una storia, storia drammatica, sì, sì. Forse, che tu hai forse riarrangiato la sì. storia, l'hai un po' modificata, sì, però sì. l'idea era parte da quello, sì, sicuramente. Sì, sì, tra l'altro guarda, considera che nel disco sto sentendo un cellulare, non so sì, se non so è normale, sì. No, okay, vabbè. No, scusate, mi entra. Il mio è spento. No, no, no, no, non è, dimmi. No, dicevo, nel disco questo brano c'è la particolarità che è un brano che parla di una storia comunque del passato, perché comunque sono fatto risale a una sessantina di anni sì. fa, ammesso che sia vero, comunque è una leggenda. Beh, una leggenda, però qualcosa di leggenda, sì. cioè la verità nel, esiste. Ecco, qualcosa. Nel disco però l'arrangiamento è fatto con una base di batteria elettronica, cioè in modo da contaminare la modernità esatto. con il passato. E tra l'altro dal vivo ti dico anche questo, sì, che dimmi. La eseguiamo anche proprio sempre con una loop station che manda quella base lì. Ah, bello, bello. Però adesso così l'abbiamo eseguita in questo modo, che quello che dicevo un po' all'inizio, cioè più si asciuga a livello di arrangiamento e più forse viene fuori l'essenza del brano, l'essenza della Quindi, storia. Quindi, discorso all'inizio, la band che ha abbandonato per ritornare solista, sì, per vedere le cose un po' sì. in modo diverso. E tra l'altro, ecco, per esempio, forse che così l'abbiamo fatta un paio di volte da sì, quando suoniamo. Sì, però, volta però per esempio, assoluto. Mentre la facevo, mi è piaciuta parecchio. Ecco, quindi non è un caso, ci sta pure che la rifaremo anche così, anche senza E quindi la radio ti ha dato sì, una infatti, nuova infatti, linfa, praticamente. Infatti, sì, perché poi dicevi, cioè effettivamente è una storia drammatica, è una storia che comunque è riferita a questo senso di preoccupazione, anche cioè un fatto, questo sorta di scemo del villaggio sì. racconta questa storia non sapendo quello che poi sta accadendo, addirittura pensa alla guerra, quindi questo senso di dramma, no? questa vicenda che sta accadendo nell'incomprensione, una vicenda completamente inattesa. Effettivamente certi stati d'animo secondo me vengono meglio fuori se c'è un a livello musicale c'è una certa essenzialità. Certo. Poi se si riescono a trovare gli ingredienti giusti per incrementare quello che è il carattere della canzone, l'idea di fondo della canzone e l'emozione della canzone, ben venga. Però insomma, a volte, per esempio, io ho notato con l'esperienza mia che ci può essere anche questo rischio opposto, cioè per voler esasperare certi stati d'animo poi viene completamente sommersa l'estensa all'interno del brano, viene nascosta disco, praticamente, viene nascosta, si diventa altro poi, insomma. Chiaramente abbiamo il tempo di ascoltarci Che Pacchia, come vi dicevo, la traccia numero 3 presa dall'ultimo CD, il primo e insomma quello che potete trovare in giro nei negozi, distribuito Audio Globe, lo ricordo, il CD è un po' gabbiano, Emanuele Bocci. Quest'anno è una pacchia, è pieno inverno e non serve la giacca, ma la tengo appesa vicino alla porta, vedrai che a marzo farà freddo per forza. Ripeteva quel ritornello che non c'è più la mezza stagione, la città sembrava un fornello, benché si fosse vicino a Natale. Io passeggiavo vestito da inverno e mi sentivo un pupazzo di neve. Già mangiavamo fragole fresche e mi scioglievo tra sciarpa e sudore. Saranno le solite stagioni bizzarre, ma quest'anno rientrando in ritardo mi sa che si è perso l'anticiclone delle Azzorre. Chi diceva quest'anno è una pacchia, è pieno inverno e non serve la giacca, ma la tengo appesa vicino alla porta, vedrai che a marzo farà freddo per forza. Ma gli scienziati dissero è tardi, ormai la terra è un inceneritore, idrocarburi, rifiuti, reattori, il rischio è semplice, qua tutto muore. Così provammo a catalizzarci in ogni singola nostra emissione, allontanammo le auto dal centro un giorno all'anno per fottere l'inquinamento. Ma a volte annusavo una forte preoccupazione, durava lo spazio di un telegiornale, distratto da mandorli incerti imbiancati a novembre da fiori stupendi. E chi diceva quest'anno è una pacchia, sono stato al mare con questo bel caldo, asciugo sempre i panni in terrazza e il 2 gennaio mi è fiorito anche un pesco. E chi diceva ma guarda che pacchia, sarà anche strano questo bel tempo, ma ancora prendo il sole in terrazza e poi risparmio di riscaldamento. Mezzo secolo scarso, con me ho le foto del secolo scorso, è stato dato l'ok dall'astro pilota, saluti alla terra, si parte per un altro pianeta. Che pacchia canzone che abbiamo preso appunto dall'ultimo disco di Emanuele Bocci. E allora siamo quasi in addirittura d'arrivo, Maurizio, per quanto riguarda la nostra trasmissione, questa puntata di Rock Wave. Sì, certo, citiamo una cosa, il primato del disco ecologista, Emanuele. Sì, sì, c'è stato qualche recensione che mi ha dato questo primato anche perché, nella citazione mi citava come il primo disco ecologista, anche perché effettivamente, insomma, anche da quello che si è detto, insomma, in trasmissione si evince che effettivamente gli argomenti in cui ruotano intorno a cui ruotano le canzoni sono molti, insomma, di stampo ecologista, insomma, parlano di natura, inquinamento ambientale, l'orso polare, anche questa canzone, sì, che pacchia, parla... Anche questo è in modo abbastanza ironico di un futuro in cui sì, fa sempre più caldo, però cavolo che pacchia, si va al mare anche d'inverno, non si accende di meno riscaldamenti, insomma. E quindi è una cosa, sì, insomma, anche questa carina, diciamo, trovata, insomma, molto calzante. Certamente. Se vuoi citare anche chi non è citato precedentemente nel disco, qualche altro contributo. Chi ha lavorato al disco? Allora, al disco ha lavorato Marinella Caslini, che è la ragazza che la grafica, insomma, l'artista, anzi, che ci ha fatto la grafica, le fotografie, e poi ha fatto l'elaborazione, insomma, grafica di tutto quanto il booklet del disco. E poi cito pure Luca Picariello in Arte Skills Factory, che è colui che comunque mi aggiorna su mia indicazione il sito, che ha fatto tutto quanto il sito, l'impostazione grafica eccetera, che insomma lavora da sempre dietro le mie quinte, insomma, da quando ho iniziato ad andare in giro a cantare le mie cose. E poi ci tengo anche a citare l'agenzia Euromusic, che è l'agenzia con cui sto collaborando da qualche mese a questa parte, insomma, e stiamo progettando, insomma, continuando a lavorare sul tour relativo a un po' Gabbiano, insomma, a questo disco qua, e poi, insomma, in prospettiva anche di fare qualcosa in più. E poi ci siamo pure Nico Cinali, che anche lui è un amico, però è colui che all'inizio mi ha preso, cioè ci siamo trovati per lavorare a questo disco, anche proprio da un punto di vista di promozione e di diffusione. Poi, visto che ho parlato di Carlo, il mio bambino, devo parlare anche della mia compagna, che c'ha tanta pazienza, insomma, con me, anche con lo zio, perché poi io do la colpa a lui, che le trova lui le serate, e quindi lei sa che le trova, e quindi dico: guarda, devo andare perché zio Cristiano ha trovato la data, e quindi anche lei, Chiara si chiama, insomma, che in realtà, guarda, un disco, sì, si fa di musicisti, di canzoni, di produttore, però si fa anche molto di energia umana, anche rapporti con le altre persone, gli amici che comunque ti incoraggiano, la compagna che ti sta accanto, che comunque ti dà una mano, e poi so le emozioni che si provano anche quotidianamente, che diventano canzoni. Benissimo. E allora, Rock Wave è arrivato al termine, abbiamo il piacere di ascoltare l'ultima canzone e quindi ci salutiamo qui, e poi con la canzone andiamo a chiudere proprio l'appuntamento di Rock Wave. Ringrazio tutti voi ascoltatori di Blu Radio Veneto, ovviamente Rock Wave continua sempre e tutte le altre sere dal lunedì al venerdì su queste frequenze. Grazie a Emanuele Bocci, grazie a Cristiano Bocci, chiudiamo con un po' Gabbiano. Con un po' Gabbiano. E allora, ringraziamo anche voi, tra l'altro. Grazie, che ci avete invitato qua, grazie. È stato un piacere. Sono un po' gabbiano, ma non mi piace il vento, transito dal mare spesso, abito il cemento, mangio la discarica, ho una mia politica, meglio un uovo oggi, io non volo per l'incerto, mi alzo in cielo col mio branco in piena libertà. Volo da gabbiano tra un veliere e un peschereccio, con due ali così grandi potrei far di tutto, ma vivo alla discarica tranne alla domenica. Migro sulla costa e regalo e mostro il petto, mi alzo in cielo col mio branco in piena libertà, istinto di fame olfatto, con eleganza atterro per mangiare. Sono un po' gabbiano e nel cielo mi nascondo. Non ho l'istinto dello struzzo, sciocco e corpulento. Punto qualche nuvola umida, poetica. Ebro è fatto dallo smog, ci svolazzo dentro. Volo da gabbiano, libero ed immenso. Con due ali così grandi abbraccio l'universo. Ma vivo la discarica e dormo tra la plastica. E rivendico un mio posto agitando il becco. Mi alzo in cielo col mio branco in piena libertà. Istinto di fame e olfatto, con eleganza atterro per mangiare. Scarpe rotte, panni usati, scatole di quasi niente. Come un falco coraggioso faccio un volo in cima al monte. C'è pur sempre un panorama d'acqua sulla spazzatura. Cessi e lavandini frantumati e in lontananza il mare. Mi alzo in cielo col mio branco in piena libertà. Ma aspetto se tira vento. Di spettinarmi non vorrei rischiar. Del rock.